Ascolto musica e stanno disco. Il volume è troppo alto per questo, non sento se qualcuno mi dice saluti o meno. Non vorrei essere scortese, dico grazie a voce alta, anche se non sono sicuro che sia utile, magari anche irrisorio. Stentorio, trasformatilo in paesaggio che scorre nel suo contrario. A contatto con le gocce, il vetro si rompe, rimane sospeso nello spazio e nel tempo. Mi guardo dentro, osservo il mio ventre e mi scopro senziente, tentennante, tratti simbolico e evanescente. Ascolto il profumo della notte, dalla postazione tattica, anche a una delle due finestre. L'acqua viene alla luce e vi si fonde, l'allucinazione presente, le fronde neuroniche, ma ecco, cigola la carrucola del pozzo. Traumatico ritorno alla realtà come Eugenio. Eugenio, cammina con me. Lungo il muro tocco i cocci di bottiglia, mi attacco al dormiveglia, unico punto di contatto con la meraviglia. In quel momento nasco, discosto il parapiglia di quando scattava il cazzo di gioco della bottiglia. Un minuto di battaglia interrotta, vedo a tratti un'ombra, sporadica presenza. Dici di credere in Dio, hai meno misticismo tu nella tua esistenza che un atomo di cloro nella sua potenziale piccolezza. Io credo, onirico riferimento pleasure, al presentimento che qualcuno dopo il salame mi stia inseguendo. Corro, ma so che lui esiste. Sabbia, Sahara, Africa, non Castellammare di Stabia, dove l'uomo vive senza rancore, dove tutto scorre, viaggia come un fiume senza colore, odore, sapore, rumore. Il sole muore, si sente l'orrida escursione termica, solo un passo cavalca con destrezza la landa arida, vestigia tunica, l'espressione in volto denota un'unica nota armonica, il paradosso cosmico, indaco, i suoi occhi risplendono, più che vedere sentono, attendilo, è l'eminenza grigia che mai smette di muoversi, la sua spada ferisce chi tuttora continua ad illudersi e chi non sogna, distrugge i dubbi e le certezze, segna la svolta, lui non rappresenta niente, è solo se stesso, l'asintotico ideale del saggio stoico mai raggiunto, carnagione complessa dal colore insulso, grigio, difficile a dirsi, difficile a definirsi, la sua esistenza rappresentazione di un ipotetico estendersi all'infinito della realtà nel sogno, lo vedo, è una proiezione di me stesso ma possiede esistenza autonoma nel superego, mentre non mi spiego, tu capisci ancora meno, sarà sporadico, quello che non riesco a vedere lo immagino, ma poi mi tocca conviverci e definire tutto per spiegarlo, spiegarlo al mondo con termini terrestri. Questo è uno skit.